Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo della riforma dei porti varata dal governo, dell'A22, l'auto Brennero, che per i prossimi 30 anni sarà gestita da una società a capitale interamente pubblico. Il punto sul portale della regolarità delle imprese di autotrasporto diventato operativo a dicembre. In apertura quindi la riforma dei porti. Il testo arriva a 22 anni dall'ultima legge che aveva regolato l'attività del settore e ha come obiettivo centrale quello di restituire competitività agli scali nazionali lungo le rotte mondiali. Riassumiamo le linee essenziali della riforma. Le autorità portuali passano da 24 a 15 con l'accorpamento dei 54 scali di rilevanza nazionale su base regionale, in alcuni casi interregionale. Si chiameranno autorità di sistema portuale e faranno riferimento ad un tavolo nazionale di coordinamento. L'intento è quello di gettare le basi affinché la portualità italiana faccia finalmente sistema. Alleggerita la governance, in sostanza più poteri ai presidenti. La riforma dei porti ha ottenuto consensi da parte delle varie categorie. Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente di Assoporti, Pasqualino Monti. Sono felice del fatto, parlo a nome chiaramente dell'associazione che oggi mi è onore di presiedere, dell'Assoporti, che questo possa consentire al sistema paese di sfruttare fino in fondo le potenzialità, ma soprattutto la strategicità di questo comparto, che è il comparto portuale, non solo portuale, ma finalmente anche logistico. Sono convinto che in un paese come l'Italia, così come dichiarato anche ufficialmente, che è la settima potenza industriale a livello mondiale, ma che deve fondamentalmente questo ruolo al fatto che ci sia nel nostro paese un'industria essenzialmente di trasformazione, che quindi il nostro paese sia un paese di grandi importatori, i porti e la logistica rappresentano la chiave, diciamo così, di volta per il successo dell'intero sistema paese. Non è solo una questione di governance, lo sviluppo dei porti italiani passa necessariamente da un alleggerimento del peso della burocrazia. Nei porti attualmente intervengono 23 soggetti per dare seguito a ben 113 provvedimenti amministrativi diversi. Ascoltiamo ancora Monti. All'interno di quel provvedimento ci sono anche introdotte delle significative norme di semplificazione e di sburocratizzazione, che sono norme immateriali, che sembrano essere importanti, ma che sono significative perché attraggono traffico, tra cui lo sportello unico doganale, lo sportello unico amministrativo, lo sportello unico di controllo, l'efficientamento di tutti gli organi di governo dell'autorità portuale, dell'autorità nuova di sistema portuale. Ecco, questo è per noi il punto più importante di questa riforma, fermo restando che poi accaduta c'è anche la diminuzione del numero delle autorità. Non del numero dei porti, ma del numero degli enti di governo di questi porti. Quindi non una semplice, una mera operazione di spending review, ma un'operazione, diciamo così, di ricalibrazione di quello che è l'intero sistema portuale nazionale attraverso delle norme nuove, ma attraverso anche dei momenti di efficienza diversi rispetto al passato. E sulla strada dell'efficientamento si inserisce l'iniziativa del Porto di Genova, che ha avviato lo svincolo telematico delle merci. I documenti non viaggiano più a mano, ma direttamente in rete. Luciano Boselli, dirigente dell'autorità portuale. La prima finalità è quella di assicurare un transito veloce agli oltre 4.000 mezzi che quotidianamente attraversano le nostre infrastrutture. Secondo, garantire tempi di stazionamento veloci nel porto. Da questo punto di vista, ogni elemento cartaceo ha un costo logistico per il porto e laddove le associazioni degli operatori si danno da fare per sviluppare soluzioni telematiche fanno un grosso favore allo sviluppo del porto. In sostanza, non più carta, non più fattorini a consegnare i documenti. Non c'è più la carta. Noi nel porto di Genova ogni piccolo residuo cartaceo è qualcosa che ci costa in termini di tempi. I tempi operativi per noi sono un aspetto fondamentale. Non solo, laddove riusciamo ad eliminare tutti gli elementi cartacei, noi riusciamo a avviare tutte le attività di cosiddetta gate automation, come la chiamiamo noi, che significa sostanzialmente virtualizzare il passaggio dei dati. Per noi questo è un aspetto fondamentale, non solamente dal punto di vista dello stress organizzativo del porto, ma anche dal punto di vista della possibilità di raccogliere queste informazioni e renderle disponibili nel sistema logistico che fa riferimento sul porto di Genova. E con l'allerta terrorismo, lo svincolo telematico delle merci diventa un alleato importante sul fronte della sicurezza. Ogni contenitore ha un linguaggio, questo linguaggio è fatto di tanti, come dire, di tante informazioni. Queste informazioni che accompagnano il contenitore sono almeno una quindicina. Le informazioni di sicurezza, quindi su che mezzo è il contenitore, chi lo sta portando in porto, sono informazioni estremamente rilevanti. Tanto più riusciamo ad associarle ad elementi operativi quali lo svincolo, tanto più realizziamo un vantaggio competitivo complessivo per il porto. Dai porti alle autostrade, da Genova al Brennero, dove l'annuncio di Vienna di sospendere l'accordo di Schengen per il momento non ha sortito un inasprimento dei controlli. In quel caso le conseguenze sul flusso delle merci sarebbero pesantissime per l'intero sistema logistico. Ma andiamo al Brennero per parlare dell'autostrada, la A22. È stato firmato il protocollo d'intesa che porterà all'assegnazione della concessione trentennale. Andrà ad Autobrennero, che sarà una società pubblica, cioè partecipata e controllata dai soci pubblici stessi, la regione Trentino Alto Adige, le province di Bolzano, Trento, Modena, Reggio Emilia e Verona. Mauro Gilmozzi è l'assessore alle infrastrutture della provincia autonoma di Trento. È un protocollo estremamente importante, anche perché ci permette di ragionare su una logica di corridoio tra il Brennero e Verona e poi più ampiamente, insomma, anche oltre il Brennero, pensando di mettere insieme non solo l'aspetto autostradale, quindi la gomma, ma anche quello ferroviario. Non a caso questo accordo è un accordo che prevede notevoli investimenti sotto il profilo della rotaia, quindi circa 1.100.000.000 di euro, insomma, da parte dell'autostrada saranno investiti proprio sulla rotaia, quindi sul potenziamento del trasferimento, insomma, anche di merci, persone, da gomma alla rotaia, ed inoltre tutta una serie di altri investimenti sono previsti per garantire quel green corridor, no? Che nelle Alpi è particolarmente importante, che aiuterà a migliorare la qualità della vita degli abitanti e nel contempo anche a introdurre una modalità nuova ed integrata di mobilità a livello europeo. Il futuro dell'Autobrennero rappresenta un primo esperimento di una società costituita in-house per la gestione di un'autostrada, una condizione prevista dalle norme europee in materia di concessioni. Ci sono alcune situazioni in cui è possibile che l'in-house, e quindi la gestione diretta da parte dell'ente pubblico, se virtuosa appunto come quella che noi abbiamo garantito fino ad oggi, possa essere la prima opzione. E quindi da questo punto di vista è la prima che l'Italia sta sperimentando. E come dire, noi siamo molto orgogliosi del fatto che sia nel nostro territorio e con le nostre società che parte questo esperimento. Da poco più di un mese il portale della regolarità delle imprese di autotrasporto è pienamente operativo, uno strumento che favorisce le aziende sane a beneficio di un mercato basato sul rispetto delle norme. Ora è disponibile anche un video della rivista TIR, la rivista dell'albo degli autotrasportatori, attraverso il quale viene spiegato come poter accedere al database. A Giuseppina Della Pepa, segretario generale di ANITA, abbiamo chiesto qual è stata la prima risposta da parte delle imprese. È stata molto positiva e dai riscontri che noi abbiamo fatto, devo dire, molte imprese hanno fatto l'accesso. Certamente il punto della situazione si potrà fare compiutamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quello che conta è che le aziende siano perfettamente informate di quelli che sono gli adempimenti a loro carico. Per un'impresa o un cittadino, accertarsi preventivamente se l'azienda alla quale viene affidato un servizio di trasporto è in regola significa evitare l'eventuale corresponsabilità qualora venissero riscontrati illeciti. La verifica sulla regolarità non solo è un impegno, diciamo, delle associazioni, ma è stato anche previsto dalle norme di legge. Infatti i committenti, siano essi i produttori, l'industria, ma anche le imprese di autotrasporto, quando affidano ad altri vettori appunto questi servizi, hanno l'obbligo prima di affidare il servizio di effettuare questa verifica al momento sul portale dell'automobilista, ma a breve anche sul sito dell'albo, dove appunto tutto il sistema verrà trasferito. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.